Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Prospettiva di un nuovo passaggio di mano per lo stabilimento della Flex. Il fondo Faircap è pronto a vendere, un'opzione accolta con favore dai sindacati che esigono però trasparenza. Non bastano gli intenti, la regione vuole passi concreti e oggi i lavoratori in assemblea. I dipendenti della Savio e di Pordenone, avvisati con un SMS che slitta di una settimana il loro rientro in fabbrica dalla cassa integrazione. Cassa integrazione già programmata per 13 settimane per il 2025. I magistrati in sciopero oggi contro la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del CSM, la sezione dell'Associazione Nazionale dei Magistrati di Trieste organizza un incontro con i cittadini in tribunale a mezzogiorno. Approvata la legge sulle aree idonee per l'installazione dei parchi fotovoltaici che dovranno rimanere lontani dai siti protetti e dalle aree agricole di qualità. Da sabato niente esami specialistici convenzionati, i tagli al tariffario imposti dal Servizio Sanitario Nazionale non li rendono più redditizi. Non abbiamo più tempo, è il grido di Patrizia Cormos, all'operatore del 112, mentre si vede travolgere dalla piena del Natisone. Un audio con inclusa la messa in attesa dei ragazzi che la madre di Patrizia ha ascoltato e che sarà portato anche in udienza. Basket, doppia vittoria in A2 per Udine e Cividale in trasferta. Apu chiude 75-70 con Rieti, Gestecco ha battuto l'Avellino 85-81. Al via i campionati mondiali junior di sci a Tarvisio, ieri sera la cerimonia di apertura alle prime gare alle 9. Il meteo, il cielo è nuvoloso, le temperature registrate poco fa a Trieste 9 gradi e 5 decimi, vento 48 km orari da est-nord-est Bora, con raffiche che nella notte hanno raggiunto i 70 km orari. A Gorizia e Pordenone 8 gradi, Udine 7 gradi e mezzo, Tolmezzo 3 gradi, Tarvisio 1 grado e mezzo, Forni di sopra 1 grado, Piancavallo e Sappada 0 gradi, sull'Ussari e sullo Zoncolan meno 3 gradi e mezzo, grado Lignano 10 gradi. Le previsioni fino alle prime ore del mattino nel Tarvisiano nevicate, residue in genere deboli fino a fondovalle e possibili foschie. In giornata cielo variabile su tutta la regione con schiarite nelle ore centrali e maggiore nuvolosità verso sera. Sulla costa soffierà bora moderata con raffiche sostenute al mattino a Trieste. Buongiorno da Andrei Marusci, c'è Nada Cioc in apertura, gli sviluppi sullo stabilimento della Flex che potrebbe cambiare nuovamente proprietà Faircap. Il fondo italo-tedesco che poche settimane fa aveva rilevato il sito triestino è pronto a cedere l'azienda, una prospettiva fatta al tavolo ministeriale che i sindacati accolgono a patto che venga fatta in totale trasparenza. Tale ipotesi, dicono Fiom, Fime e Wilm, è l'unica possibile considerato che Faircap è nell'impossibilità palese di presentare un piano industriale. Gli assessori Rosolene e Bini, prima di fare qualsiasi considerazione, esigono però passi concreti e non soltanto intenti. Intanto da domani scadono i contratti di solidarietà per 302 lavoratori e Faircap dovrà fare fronte a questo costo. Oggi assemblea dei lavoratori. Cedere lo stabilimento ai suoi 350 dipendenti ad un soggetto terzo interessato all'acquisto. Nessun piano industriale quindi per Adriatronics di Trieste, questo è il nuovo nome del sito dopo l'abbandono di Flex. Sono già arrivate manifestazioni di interesse, due in particolare da importanti aziende che sarebbero pronte a rilevare il sito e proporre un vero piano industriale. Questo ha fatto sapere la Faircap, con sede principale a Monaco di Baviera, nell'incontro al Ministero per le Imprese. Il Made in Italy, alla presenza di funzionari ministeriali, regionali e dei sindacati. Da lunedì 3 marzo i lavoratori non avranno più diritto agli ammortizzatori sociali e Faircap dovrà pagare di tasca propria gli stipendi. Anche questo elemento fa presupporre che la cessione avverrà in tempi ragionevolmente brevi. Tutte le parti al tavolo sono concordi nel dire che questa ipotesi è l'unica possibile, considerato che Faircap si occupa principalmente di acquisire piccole e medie compagnie per guidarle in un cambiamento sostenibile, almeno così recita il loro sito web. In una nota congiunta, Fiom CGL, Fim CISL e Wilm sottolineano che la possibile reindustrializzazione dovrà essere svolta in modo trasparente e condiviso. Chiedono un confronto costante con il tavolo ministeriale che porti ad un accordo a salvaguardia del sito e del valore industriale, oltre che dell'intera occupazione. In occasione dei prossimi tavoli ministeriali si entrerà nel merito di queste proposte di acquisto. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. I lavoratori della Savio di Pordenone, che affronteranno l'anno con 13 settimane di cassa integrazione già previste, resteranno ancora una settimana a casa, sempre in cassa integrazione. La comunicazione dello slittamento del rientro in fabbrica è arrivata con un SMS. Non rientreranno in fabbrica la prossima settimana i lavoratori della Savio Macchine Tessili. Per l'azienda di Pordenone il mese di marzo si apre con un'altra settimana di cassa integrazione. Il rientro, che era previsto per il 3 di marzo, slitta di altri 7 giorni. La comunicazione è arrivata ieri e i sindacati ne contestano la modalità. L'azienda ha avvisato i lavoratori tramite SMS, bypassando l'RSU, ha spiegato Nicola Drigo della FIM, che esprime per perplessità sulla gestione dell'ammortizzatore sociale. Non vengono garantite, dice, le rotazioni e il mancato confronto con i rappresentanti sindacali alimenta un clima di tensione. Il 2025 dello stabilimento pordenonese si è aperto con l'annuncio di 13 settimane di cassa integrazione da gennaio ad aprile per i 310 dipendenti, con 3 sole settimane di lavoro pieno. Il 2024 si era concluso con un fatturato dimezzato rispetto all'anno precedente e una produzione scesa da 60.000 a 20.000 testine. Il sospetto è che il calo non sia dovuto solo alla contrazione del mercato globale, ma che siano state perse quote di mercato, concluso Drigo, che sottolinea anche la sofferenza dell'indotto, stimato in 1.200 lavoratori. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. L'Associazione Nazionale Magistrati oggi è in sciopero contro la riforma della giustizia che prevede la separazione delle carriere e lo sdoppiamento del CSM. Uno sciopero annunciato con largo anticipo che è stato preceduto dall'atto dimostrativo durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario in tutte le corti d'appello d'Italia, con l'uscita dalle aule dei magistrati che avevano una coccarda tricolore al petto e la Costituzione in mano. Per lo sciopero odierno la sezione Associazione Nazionale Magistrati del distretto di Trieste ha indetto un'assemblea straordinaria aperta a tutta la cittadinanza, che si svolgerà nell'atrio del Palazzo di Giustizia di Trieste alle 12, alla quale parteciperanno magistrati da tutta la regione. Vi sarà la lettura di alcuni articoli della Costituzione e gli interventi di alcuni magistrati che spiegheranno i loro timori per le conseguenze della riforma. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza, con 25 sì del centrodestra e 3 no del gruppo misto, 16 astensioni tra PD e Patto per l'autonomia civica FVG, il disegno di legge sull'installazione degli impianti a fonti rinnovabili e ha deciso di inviare alla Giunta la proposta di risoluzione della petizione 11, contrarietà ad impianti per il fotovoltaico in prossimità delle aree residenziali di Romas di Sonzo, modificando il testo nelle parti in cui è stato superato proprio dai contenuti del DDL. Accolto. La legge definisce le aree idonee per l'installazione dei parchi fotovoltaici che potranno sorgere anche nelle ex cave, negli ex parcheggi o nei siti industriali. Nelle zone agricole sarà possibile installare impianti fotovoltaici o di produzione di biometano entro un perimetro di 500 metri da un impianto industriale. Le aree non idonee saranno individuate dalla Giunta e riguarderanno siti UNESCO certificati o in via di certificazione, siti tutelati quali Natura 2000 o anche parchi e riserve naturali o zone dedicate ad attività agricole di qualità. Previste anche delle compensazioni per le aree in cui saranno insediati gli impianti. Una legge conservativa e prudente l'ha definita l'assessore regionale alla difesa dell'ambiente Scocimarro, uno strumento che, dice, cerca di limitare lo sfruttamento del territorio ma senza ostacolare la transizione energetica. 5 agenti di polizia penitenziaria del carcere di Udine rimasti feriti in 2 diverse aggressioni accadute nel giro di appena 24 ore. Il sindacato punta il dito sulle difficili condizioni in cui sono costretti a lavorare a causa del sovraffollamento e della carenza di organico. La prima aggressione, lunedì pomeriggio, un giovane detenuto nel carcere di Udine con problemi di tossicodipendenza che stava per essere portato all'ospedale per aver ingoiato delle pile per protesta dopo il rifiuto alla sua richiesta di farmaci, appena fuori dalla cella, si è scagliato contro i 3 agenti della polizia penitenziaria incaricati di scortarlo, sferrando pugni e calci e prendendo uno di loro per il collo. Sono dovuti intervenire rinforzi per bloccarlo, mentre i 3 agenti rimasti feriti sono finiti con lui all'ospedale e dimessi con prognosi dai 5 ai 12 giorni. La seconda aggressione, neanche 24 ore dopo, si è consumata invece il pronto soccorso sempre dell'ospedale di Udine, dove un altro detenuto che vi era stato condotto dopo aver distrutto la cella in preda a un forte stato di agitazione ha dato in escandescenze e ha preso a botte i due agenti che lo stavano scortando, colpendo con una testata uno dei due che ha perso i sensi. Per quest'ultimo un trauma cranico e un giorno di ricovero. È stato dimesso con una settimana di prognosi, 10 giorni di prognosi invece per il suo collega, gli ultimi di una serie di episodi dall'inizio dell'anno ad oggi nel carcere sia di Udine che di Trieste, rileva nel darne notizia il delegato nazionale per il Friuli Venezia Giulia del sindacato della Polizia Penitenziaria Sappe, Massimo Russo, che più volte ha sollevato il problema dei detenuti aggressivi e con problemi psichiatrici aggravato dal sovraffollamento delle strutture carcerarie che espone gli operatori al rischio quotidiano di aggressioni. I 7 nuovi agenti appena arrivati nel carcere di Udine non bastano a sopperire alla carenza di personale, rileva Russo, che chiede interventi urgenti della politica. Solidarietà agli agenti feriti arriva intanto dal garante regionale dei diritti della persona Enrico Sbriglia, che afferma di aver toccato con mano le difficoltà degli operatori a gestire un disagio crescente fra i detenuti e già in passato ha definito eroica la loro attività. Ma se questi fatti accadono non poche volte, per tentare di prevenirli, necessario per Sbriglia interrogarsi su cosa possa averli scatenati. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Non abbiamo più tempo. Il grido disperato di Patrizia Cormos all'operatore mentre chiede aiuto per sé e gli altri due amici che stanno per essere inghiottiti dal natisone. Un audio che lascia i brividi a chi lo ascolta e che sarà ascoltato anche in tribunale quando si cercherà di definire come ha proceduto la macchina dei soccorsi. Cioè, mi fa tutto male, cioè, sentire loro quanto sono disperati, che piangono, chiedono aiuto e nessuno che si interessa a loro. Angoscia che si fonde a disperazione quando Michaela Tritian continua a riascoltare l'audio delle telefonate della figlia Patrizia Cormos che chiede aiuto. Non abbiamo più tempo, la prego, dice la ragazza che oggi avrebbe 21 anni. In sottofondo le grida di Christian Molnar. La telefonata, la seconda, è alle 13.36. I tre ragazzi saranno inghiottiti dalle acque del natisone a Primariacco alle 14.10, 3 minuti prima dell'arrivo dell'elicottero. Ad aumentare il senso di angoscia, la musica di attesa della chiamata, nonostante il tono di Patrizia sia disperato mentre l'operatore le chiede posizione e video della situazione. Piuttosto di stare lì con loro al telefono, rassicurarli, mandare subito l'elicottero, qualcuno che li aiutasse. Loro sono interessati di mandare la posizione, non le hanno creduti, non riesco a capire cosa le hanno passato per la mente. Non ce la facciamo più, urla Patrizia nella terza chiamata. Voglio capire perché li hanno messi in attesa, cosa hanno fatto in tutto questo tempo, 6 minuti di attesa. Voglio capire perché è rimasto così scocciato quando l'ha richiamato. L'operatore della Soris, insieme ad altri 3 vigili del fuoco, è stato indagato dalla procura di Udine per omicidio colposo. A giorni si saprà la data della prima udienza. In una nota a firma Coordinamento Vigili del Fuoco FPCGL Friuli Venezia Giulia si scrive che non è accettabile che un lavoratore possa ritrovarsi imputato davanti alla giustizia semplicemente per il fatto di aver svolto il proprio lavoro, per di più nel pieno rispetto delle procedure definite dalle amministrazioni competenti. Riteniamo necessario per la tutela del personale, continua la nota, che l'amministrazione assuma su di sé il patrocinio legale dei lavoratori coinvolti. I colleghi, secondo quanto scritto nella nota sindacale, avrebbero rispettato i protocolli stabiliti. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. La procura di Udine non ha rilevato responsabilità di terzi nella morte dello sciatore di nazionalità ceca che durante un fuoripista è finito contro un muro. L'apertura di un fascicolo in procura è un atto dovuto in questi casi. Ipotesi di reato, omicidio colposo a carico di ignoti. Ma allo stato attuale, rende noto il procuratore della Repubblica di Udine, Massimo Lia, non sono ipotizzabili responsabilità di terzi nell'incidente mortale che ha coinvolto uno sciatore 68enne della Repubblica Ceca sullo Zoncolan. Una tragica fatalità, insomma. In mattinata, all'indomani del fatto, all'ospedale di Tolmezzo non è stata eseguita autopsia, ma solamente un esame esterno, dopo il quale l'autorità giudiziaria ha concesso il nulla osta per il rilascio della salma. Presente al riconoscimento in obitorio la famiglia dell'uomo, che alloggia per la settimana bianca in una struttura tra Ravascletto e Comeians, assieme a diverse decine di connazionali. Difficile ricostruire con esattezza il fuoripista dello sciatore. Sulla neve gli agenti della Polizia di Stato non hanno rilevato tracce, solamente i segni lasciati dagli sci sull'asfalto. All'improvviso l'uomo, infatti, emergendo dalla boscaglia, deve essersi ritrovato sulla stradina asfaltata che corre al lato della pista 4, separata e più rialzata rispetto alla stessa. Deve aver inforcato gli sci, cadendo lateralmente sulle rocce che delimitano la stradina. Fatale l'impatto coi massi. I saw him just laying there. Ho visto che giaceva lì, non abbiamo visto nessun casco, immagino non ne avesse uno. Aveva la testa insanguinata, siamo arrivati qui un paio di minuti dopo l'incidente. Promoturismo FVG esprime vicinanza alla famiglia e lancia un appello agli sciatori. Pensate sia alla sicurezza degli altri che alla vostra. Sutrio, Zoncolan, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. Da sabato diverse prestazioni mediche effettuate dai privati in convenzione saranno sospese. I privati contestano i tagli delle tariffe nazionali dal 20 al 60%, una sospensione di prestazioni che allungherà i tempi di attesa. Sospese da sabato le prestazioni sanitarie in convenzione col Servizio Sanitario Regionale erogate dal privato accreditato oggetto delle nuove tariffe nazionali in vigore da dicembre con rimborsi al ribasso anche del 60% dalla diagnostica per immagini alle prestazioni che da ricovero ora sono classificate come ambulatoriali come ernie, varici, artroscopie, una decisione sofferta che impatterà soprattutto sui cittadini, scrivono in una nota congiunta i rappresentanti delle associazioni regionali di categoria AIO, PANIS, APARIS e Assosalute che per protesta contro i tagli e i rimborsi oltre al blocco delle prestazioni hanno presentato ricorso al TAR come già in altre regioni. A fronte di spese in aumento le nuove tariffe rilevano sono troppo basse sotto i costi di produzione e di fatto stanno costringendo le strutture sanitarie private a lavorare in perdita, rimarcano le associazioni. Chiamano in causa anche la regione per arrivare a una soluzione che porti a una integrazione delle tariffe più colpite dai tagli. L'assessore alla salute Riccardi ricorda che la regione non può intervenire perché si tratta di disposizioni statali sulle quali inoltre grava il contenzioso giudiziario sollevato dal privato accreditato di tutta Italia e ribadisce che per prima cosa occorre garantire i servizi ai cittadini. Lara Boccalon, TGR Friuli Venezia Giulia. Il Ministero della Salute ha pubblicato le pagelle dei LEA, i livelli essenziali di assistenza per l'anno 2023. Le prestazioni ospedaliere non brillano, nella classifica nazionale siamo 14esimi su 20, abbiamo recuperato però posizioni nella prevenzione dove siamo ottavi. Ospedale, prevenzione e assistenza territoriale. Il Friuli Venezia Giulia se la cava abbastanza bene in tutte e tre le aree. Rispetto agli anni passati vede un calo sull'assistenza ospedaliera, ma recupera negli altri due settori. A dirlo è il Ministero della Salute che ha elaborato per ogni regione le pagelle di valutazione sui LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè le prestazioni gratuite e omogenee del Servizio Sanitario Nazionale. I dati, pubblicati anche dal Sole 24 Ore, riguardano il 2023. A livello nazionale la valutazione del Ministero fotografa una realtà differenziata. Le regioni del Sud si trovano nella parte bassa della classifica, alcune anche con punteggi insufficienti, mentre quelle del Nord, tranne la Valle d'Aosta, ottengono i risultati migliori. Il Friuli Venezia Giulia è 14esimo per quanto riguarda le cure in ospedale, 73 punti rispetto ai 75 del 2022 e dei 78 del 2021. In compenso crescono gli altri due valori, è ottavo in classifica sul piano della prevenzione, area che comprende realtà come le vaccinazioni, gli screening oncologici e gli stili di vita, con 81 punti, l'anno scorso erano 71. E va bene anche il distretto, che considera tra le varie voci anche i servizi di assistenza a domicilio, nono con 81 punti anche qui rispetto ai 73 del 2022. Secondo l'assessore alla salute Riccardi, i risultati migliorano, ma il lavoro da fare non è poco e si scontra con la resistenza che abbiamo vissuto anche nell'approvazione della rete oncologica, la quale inevitabilmente orienterà la revisione della rete ospedaliera. L'obiettivo è, dice, quello di scardinare un'impostazione ospedale-centrica dove la distribuzione delle risorse è troppo frammentata. La sfida resta curare la fase acuta, ma essere pronti anche alla cronicità. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Disabilità e non autosufficienza, marginalità estrema e accessibilità delle informazioni all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Sindaci del Noncello, svoltasi a Porcia. L'Assemblea ha provveduto a stabilire le quote di riserva del Fondo Autonomia Possibile, destinando 30.000 euro alla sperimentazione di abitare inclusivo, area che nei prossimi anni troverà uno sviluppo sempre maggiore, anche in collaborazione con enti del terzo settore, guardando al dopo di noi e 10.000 euro per persone con patologie in fase terminale. Nello specifico per il 2025 l'ambito del Noncello tramite l'ente gestore ha ricevuto 3 milioni e mezzo destinati al Fondo Autonomia Possibile. Attualmente sono circa 900 le persone per le quali è stato rilevato un fabbisogno. È stato approvato anche il protocollo per la gestione di progetti personalizzati per le persone con problemi di salute mentale condiviso con l'azienda sanitaria. Sono 300 le persone prese in carico. L'evoluzione della politica fiscale nell'Unione Europea è il tema che Lucio Peng, già direttore per le politiche macroeconomiche della Commissione Europea, tratterà all'Università di Udine alle 14.30 nell'aula Strassoldo del Polo Economico. L'incontro sarà introdotto da Francesca Busetto, Antonio Massarutto e Simone Tonin, coordinatori dei corsi di studio di Economia e Commercio e in Economics, Scienze Economiche. Il seminario si terrà in inglese. Nel giorno dell'audizione a Roma per la candidatura capitale italiana della cultura, Pordenone si è giocata le sue carte di città di impresa e di cultura. Unica candidata del nord-est, dietro il volto operoso, si è presentata come ribelle, capace di sorprendere. Il dossier ha incassato i complimenti della Commissione e del Ministero della Cultura, anche per il coinvolgimento del territorio. Siete riusciti a portare qui un pezzo del Friuli Venezia Giulia, è stato detto. L'intervento centrale è stato affidato al Presidente Massimiliano Fedriga in videocollegamento. Pordenone è una comunità che si muove insieme, pronta a valorizzare le proprie peculiarità, ha detto. Soddisfatto dell'audizione anche il vice sindaco reggente Alberto Parigi, che si è detto fiducioso. Entro fine marzo il verdetto. Il progetto di restauro e risanamento conservativo dello storico stabilimento balneare Ausone di Trieste, che prevede un investimento di circa 2 milioni e 200 mila euro da parte della regione, è pronto per la fase di implementazione. L'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, che ha curato la fase di progettazione, ha trasmesso infatti alla regione il progetto di fattibilità tecnico-economica, che ha ottenuto l'autorizzazione dalla soprintendenza. A darne la notizia l'assessore Ammirante. Il progetto di fattibilità tecnico-economica risponde all'esigenza di riqualificare e consolidare le strutture così da poter utilizzare l'immobile nella sua interezza. Esso prevede anche la ricostruzione di una parte crollata nel 2019, interventi per le passerelle lato mare, lato dogana, lungo le gradinate e sul lato trampolino, nonché il solaio, l'ingresso, i servizi igienici e la parte terminale del magazzino. E oggi alcuni studenti dello UAV di Venezia parteciperanno a un momento di confronto e discussione alla stazione Rogers sui temi della città di Trieste e sul suo porto vecchio, con particolare riferimento al sito della diga foranea, sul quale opereranno un esercizio di ricerca progettuale. Uno dei promotori del workshop è il professore Piero Zucchi dell'Università di Venezia. E oggi è anche giovedì grasso, che segna l'inizio ufficiale della settimana del Carnevale a Muggia, Piazza Marconi, l'apertura ufficiale dell'edizione del Carnevale muggesano con il ballo della verdura e la consegna delle chiavi della città a Re Carnevale, il passaggio della corona alla nuova madrina. A Trieste i ragazzi delle scuole dei rioni di San Giacomo e di Servola porteranno l'allegria colorata nelle strade e Servola nel pomeriggio si trasformerà nel corso delle serve. Opicina scalda i motori il Carnevale Carsico con il sorteggio questo pomeriggio delle partenze della 56esima sfilata di sabato, il sorteggio alle 17 al Prosvetny Dom. I più piccoli aprono anche il Carnevale di Monfalcone con la camminata mascherata dalle 10 in Piazza della Repubblica, dove alle 15 c'è la cannonata dei coriandoli. E Udine si prepara dopo 15 anni alla sfilata e apre le danze in Piazza Matteotti con lo spettacolo itinerante Ciclo Clown, arricchito da performance e trucca bimbi. Aderiscono alla settimana grassa udinese con menù a tema 14 osterie di Udine e 7 della provincia per l'iniziativa Carnevale in Osteria, promossa da Confesercenti di Udine e dal Comitato Friulano Difesa Osterie. Mauro Kovacic porta questa sera al Politeama Rossetti la trilogia triestina, una serata evento con i tre monologhi Svevo, Joyce e Sabba, che lo scrittore triestino ha interpretato singolarmente in tutta Italia e che questa sera danno vita a una maratona letteraria con supporti enogastronomici a sostegno degli spettatori in sala. Lo spettacolo, prodotto dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, è un evento unico in scena soltanto stasera. Boston Marriage, una commedia del premio Pulitzer David Mamet con la regia di Giorgio Sangati, va in scena al Teatro Giovanni da Udine per la rassegna Soggetto Donna, uno spettacolo ambientato negli Stati Uniti di fine Ottocento in un salotto con due dame, una cameriera, interpretata da Maria Paiato, Mariangela Granelli e Ludovica Dauria. Una produzione del Centro Teatrale Bresciano e il Teatro Biondo di Palermo, sipario alle 20:30. Lo spettacolo sarà preceduto dall'incontro di Casa Teatro alle 17:30 18.30 dal titolo Conflitto e riconciliazione, a cura di Peter Brown, direttore della British School del Friuli Venezia Giulia. L'anteprima della Schubertiade 2025 dalle 20 nella Sala del Ridotto al Verdi di Trieste farà rivivere l'atmosfera di una serata musicale in un salotto viennese nella prima metà dell'Ottocento. I protagonisti saranno tre artisti triestini, il soprano Laura Antonaz, Marco Pannella al corno e Edoardo Torbianelli al pianoforte. Due gli elementi inediti del programma del concerto: l'abbinamento del suono del corno al classico binomio voce-pianoforte e la ricerca di autori oggi raramente presenti nei programmi da concerto. L'evento è promosso dall'Associazione Culturale Friedrich Schiller di Trieste. Prosegue a Monfalcone la rassegna teatrale Stand Up Centro Giovani, offerta dal Comune. Il secondo appuntamento vedrà protagonista Pippo Ricciardi, comedian, autore, improvvisatore, che si esibirà alle 20 nella sala teatro Gaber. L'obiettivo della rassegna è creare un'occasione di svago e divertimento per i giovani, trasformando il centro giovani in un punto di riferimento per gli spettacoli rivolti ai ragazzi in tutta la regione. Le 7.43.45 secondi, lo sport, cerimonia inaugurale ieri sera a Tarvisio dei mondiali junior di sci alpino, nonostante le avverse condizioni atmosferiche che potrebbero condizionare le due gare di discesa in programma questa mattina a partire dalle 9 con la prova femminile e a seguire subito dopo quella maschile. Ma intanto arrivano buone notizie per il ritorno della Coppa del Mondo femminile a Tarvisio nel gennaio del 2026. Sotto una pioggia battente i fuochi d'artificio hanno salutato a Tarvisio l'apertura ufficiale dei mondiali junior di sci alpino. Dopo aver attraversato le vie del centro, gli atleti provenienti da 60 paesi si sono radunati nella piazza centrale attorno al palco, dove si sono alternati gli interventi ufficiali da parte delle autorità e della Federazione Internazionale dello Sci. Il momento clou è stato il passaggio della bandiera della FIS dai rappresentanti francesi dell'Alta Savoia che avevano ospitato i mondiali nel 2024 a quelli della nostra regione. Un evento che vedrà gareggiare giovani dai 16 ai 21 anni nelle sei discipline dello sci alpino sulle piste di Prampero e Priesnik B, dove alto sarà il livello tecnico, come spiega il presidente della FISI, Flavio Roda. Sono importantissimi perché si riporta un grande evento in quel di Tarvisio e poi sicuramente faranno da apripista perché il prossimo anno ci sarà la Coppa del Mondo di nuovo femminile su queste piste. I mondiali junior saranno anche una vetrina per la promozione turistica del territorio, ha sottolineato nel suo intervento l'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli. Siamo molto orgogliosi di questo grande evento che appunto mette ancora una volta al centro del panorama internazionale la nostra regione con questi campionati giovanili. Presente alla cerimonia inaugurale anche la tarvisiana Lara Della Mea, fresca vincitrice della medaglia d'oro nella gara squadre ai recenti mondiali di sci alpino a Salbach. Ma i mondiali junior per me sono stati un'esperienza veramente bellissima perché ti fa crescere veramente tanto. Tornare a casa dopo la medaglia d'oro ai mondiali di Salbach e vedere che vengono svolti qua i mondiali junior nella mia Tarvisio è un'emozione grandissima. Tarvisio, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il basket in A2, doppia vittoria in esterna ieri sera per le due squadre regionali. Udine ha vinto a Rieti 70-75, riconfermandosi al vertice. Cividale ha battuto Avellino 81-85. Il servizio. Un passo piccolo ma significativo verso il sogno A1. Udine vince a Rieti e di fatto la elimina dalla corsa per la promozione diretta, ma soprattutto approfitta dell'inaspettata caduta in casa di Rimini con Torino e vola così a più 4 sulla seconda, anche se con una partita giocata in più. A Rieti partita equilibrata e dominata dalle organizzatissime difese. Più 1, meno 1, massimo 5 punti di scarto con continui cambi. Chi comanda lo fa per pochissimo. L'ex capitano bianconero Monaldi si fa valere, per i friulani rispondono Johnson e Adibegovic. Si arriva così a un finale punto a punto, la tripla di Monaldi del 60-58 riporta in vantaggi laziali, ma è Johnson a rispondere con la stessa moneta con l'ausilio fortunato della tabella. Spencer sembra dare alla Sebastiani l'abbrivio decisivo, poi però sale in cattedra Tony Hickey, canestro in rovesciata per il meno 1, 64-63 e soprattutto difese decisive. Dopo il canestro e fallo di Monaldi e due liberi di Johnson conquistati di voglia, l'ex play dell'APU commette infrazione di 8 secondi pressato dalla difesa friulana e segna un libero che voleva sbagliare. Ci sarebbe ancora speranza, tuttavia l'ennesima grande difesa dell'Apu, Costa Piccin la persa, che vale l'incontro 70-75 e fuga in classifica. Torna a vincere anche Cividale nell'ennesima sfida al Cardiopalma. Ad Avellino parte bene, trascinata da Ommiani finalmente ai suoi livelli, e regge il ritorno degli Irpini nonostante un redivo lontano dalla miglior condizione, solo 5 punti. A sopperire alla sua giornata, un Ferrari formato nazionale, anche se con la maglia azzurra non c'è stato l'atteso esordio in settimana. Anche in questo caso decisivo il finale, a 3 minuti dalla sirena Lamb sigla il vantaggio 75-76, che poi ribadisce dalla lunetta. Contro lo spauracchio Mussini, che all'andata aveva punito i ducali, Marangone è perfetto in difesa e così Dell'Agnello di destro segna il flotter che dà il più 3 e un po' di sicurezza per il 79-82. Poi ci sono solo tiri liberi, passa Cividale 85-81 e torna al quinto posto in piena zona playoff. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sfogliamo velocemente i quotidiani in Friuli Venezia Giulia, il Piccolo di Trieste, sanità stop prenotazioni, da sabato sospese le agende per una serie di prestazioni nelle strutture private convenzionate. Questo è il titolo appunto di apertura. In prima pagina del Piccolo trovo spazio anche la svolta al tavolo romano su Flex, Faircap pronto a cedere il sito. Centrale il reportage dalla nave Trieste. Trieste ormeggiata davanti a Piazza Unità in attesa dell'arrivo della Vespucci, segreti nascosti dell'ammiraglia, il titolo. La cronaca invece ci racconta della stretta sui migranti in Porto Vecchio, si ipotizza il DASPO per i migranti che cercano riparo nei magazzini fatiscenti, sono una trentina secondo il giornale. E ancora tutto pronto a Muggia per il carnevale, in arrivo altri 17 agenti per garantire la sicurezza. Anche il Messaggero di Udine apre su Italia la sanità, in primo piano la tragedia dei 3 ragazzi sul Natisone con l'appello della CGIL, lo Stato assista i soccorritori sotto inchiesta. La morte dello sciatore della Repubblica Ceca sullo Zoncolan, fuori pista e caduta fatale, ora c'è una rete di protezione. Intanto è partita l'indagine. Dalla cronaca, inaugurati a Tarvisio i mondiali di sci juniores, dai monti al mare, sabato le prime aperture in spiaggia a Lignano. Lo sport, l'Apu vince e vola Cividale, Corsara. La fotonotizia ritrae il camion che si è intraversato ieri sulla scarpata del nodo di Palmanova, non ci sono state conseguenze. Cambia invece la fotonotizia nell'edizione di Pordenone con l'audizione della città per il ruolo di capitale italiana della cultura 2027. Nei richiami di cronaca, il ritorno dopo 23 anni di Piero Montrone come procuratore, invece il lutto a Fiume Veneto. La regione piange il dirigente Tone Guzzi, era vice direttore delle risorse agroalimentari. Il Piccolo di Gorizia, nelle pagine dedicate alla città, si occupa del caffè teatro che va verso la riapertura. Al gestore verrà chiesta più qualità. Nel nuovo bando il Comune ha messo un tetto all'offerta economica, puntando soprattutto sui servizi. Si tratta di un contratto di 6 anni con base d'asta 24.000 euro, riferisce il quotidiano. E poi da Monfalcone il comitato di sicurezza in prefettura ieri pomeriggio è stato interamente dedicato a Monfalcone, focus su repressione dei reati e sulla necessità dei rimpatri di chi li commette, in scia ai recenti indirizzi della Premier Meloni, così il Piccolo. Critica il governo, preside nel mirino, apre così l'inserto del Friuli del Gazzettino, bufera su un dirigente scolastico per alcuni post sui social riferiti a Salvini e Meloni, il caso finisce dal ministro. Poi dei dati della rotta balcanica, in 10 anni 2 milioni di migranti illegali, i dati sono dell'Agenzia dell'Unione Europea. E poi sull'energia, stop ai pannelli fotovoltaici selvaggi, limiti nella legge regionale appena varata. Poi la battaglia contro il polo logistico di Porpetto, il primo no arriva dal municipio. Poi la fotonotizia e con un'apparecchiatura per la TAC saltano gli esami privati, nuovo strappo nella sanità. Lo sport, il doppio ex Larini, Udinese favorita ma occhio al Parma per il prossimo appuntamento dei friulani in Serie A. Tra dilettanti invece maxi squalifiche ridimensionate dall'appello. Dall'edizione del Gazzettino di Pordenone, capitale della cultura, sogno vicino. Ieri a Roma le audizioni per la corsa al titolo. Ciriani, da contadini a operai, adesso vogliamo stupire tutti. Il processo per i falsi attestati per fare i bidelli, 2 condanne e poi un allarme dalla procura, si lavora con l'organico degli amministrativi ridotto al 50%. Il progetto 21 tappe per l'equità di genere nello sport italiano, promosso dalla Fondazione Milano Cortina e dal CONI, arriva a Trieste alle 16.30 al Savoia Excelsior Palace, con gli interventi delle veliste olimpiche di Giovanna Micol e Valentina Turisini. Il progetto mira a sensibilizzare professionisti e studenti dello sport italiano sulle azioni necessarie per promuovere la partecipazione femminile nelle società sportive e nelle federazioni. Arsi è una tragedia dimenticata, il titolo della tavola rotonda dedicata all'85esimo anniversario della sciagura mineraria dell'Arsi avvenuta il 28 febbraio 1940. L'incontro promosso dal Circolo di Cultura Istroveneta Istria si terrà alla Casa della Musica di Trieste alle 17. Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello con Pippo Pattavina nei panni del professor Agostino Toti va in scena da oggi a domenica al teatro La Contrada. Al Kulturnidom di Gorizia alle 20.30 invece andrà in scena lo spettacolo Musica e Parole con l'attore Gualtiero Giorgini e il coro giovanile Over 12 di Monfalcone diretto da Francesca Moretti. 15 microstorie tutte con la stessa trama ma interpretate ogni volta in modo diverso. Questa è La Lettera, lo spettacolo di Paolo Nani all'Auditorium alla Fratta di San Daniele alle 20.45. Un racconto comico della meravigliosa avventura della paternità con tutti i suoi annessi e connessi dal titolo Abemus Papà di Angelo Pisani all'Auditorium Concordia di Pordenone stasera alle 21. Ti sposo ma non troppo, invece il titolo della commedia scritta e diretta da Gabriele Pignotta con Vanessa Incontrada, Fabio Avaro e Sitarta Prestinari che andrà in scena al Verdi di Maniago alle 20.45. Al Teatro Adelaide Ristori di Cividale invece alle 20.45 si alzerà il sipario su Crisi di Nervi, lo spettacolo scritto da Peter Stein che mette in scena tre atti unici giovanili di Anton Cecho. Sonia Bergamasco in dialogo con Massimo Navone presenterà il film Duse, The Greatest, da lei scritto e diretto al Miela di Trieste alle 18. L'autore Enzo Comin presenta il suo nuovo romanzo Armonia delle Resistenze al The Circle, l'associazione qui altrove in via Rastello 91 a Gorizia. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e le anticipazioni del GR. A seguire WEOF Evelyn D, il Friuli Venezia Giulia si conferma terra di inclusione e innovazione con la recente cerimonia di assegnazione a Udine di due importanti premi ad altrettanti giovani dottorandi friulani che hanno dato un contributo alla conoscenza sulla disabilità. Alle 11.20 cambio di rotta, Gaia Baraccetti, udinese, laurea in cooperazione allo sviluppo, un cambiamento radicale di vita che l'ha portata per alcuni anni in un piccolo paesino carnico e poi è tornata a Udine, sempre però battendosi con un nuovo concetto di rapporto uomo-territorio. Alle 11.55 andrà in onda Né Stato Né Mercato con Sergio Vianello, volontario triestino che da 3 anni intrattiene rapporti con associazioni ucraine. Si parlerà della situazione attuale della popolazione ucraina. Inoltre, nella rubrica Non tutti sanno che, volontari in onda, si incontrerà Luca Nicasio dell'associazione Attic di Staranzano. Questo è tutto per questo giornale radio che è stato redatto e condotto da Andrei Marusci e Nada Cioc con la collaborazione tecnica di Caterina Cabrelli. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Da tutti noi l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.